con Igor Mattei, direttore della quinta edizione di Ad Arte a Calcata, provincia di Viterbo, dal 31 agosto al 2 settembre. Igor, ben trovato. Ciao a tutti, ciao Federico e grazie per questa telefonata e per presentare questa quinta edizione del nostro Ad Arte Festival a Calcata, che dirigo, ci tengo a dirlo, insieme a Marina Biondi, Sì. e che quest'anno appunto compie ben 5 anni. Raccontiamo subito quali sono le sue caratteristiche. Le caratteristiche di questo festival sono sicuramente una precarietà estrema a livello proprio strutturale, nel senso che nasce come un colpo di reni che noi abbiamo voluto dare nel 2014 ormai, in seguito a tante situazioni legate al campo dell'arte, nello specifico nel campo del teatro e del cinema che noi insomma in quanto artisti frequentiamo. Le caratteristiche innanzitutto che ci riconoscono e ci riconosce chiunque sia stato qui da noi è che è un festival diretto, io direi condotto da due artisti e questo a detta di tutti fa la differenza, Sì. fa la differenza e nel bene e nel male, nel bene perché abbiamo ogni riguardo per quanto c'è possibile per i nostri colleghi e che insomma cerchiamo di coccolare quanto più possibile perché noi a nostra volta vorremmo che qualcun altro facesse altrettanto se noi ci trovassimo dalla parte degli ospiti invece che degli ospitati invece che degli ospiti. Caratteristiche di questo festival sono tante perché sai Federico in 5 anni ha avuto tanti cambiamenti. Tanti e tali cambiamenti voluti, ma anche in qualche modo obbligati dalla situazione di completa autonomia economica, nel senso che noi siamo autoprodotti, non perché solo per, insomma, è diventata anche un vanto, però non vogliamo assolutamente dire che non vogliamo essere sostenuti, anzi, non perché oggi con la cultura uno possa arricchirsi, ma forse mai, nessuno mai si è arricchito particolarmente tranne quei 4 o 5 nomoni, insomma, ma perché un festival a tutti gli effetti ha bisogno di essere sostenuto economicamente, perché c'è uno sforzo tale per organizzare e per promuoverlo che non è possibile, solo dei folli come noi continuano a lanciare il cuore oltre l'ostacolo, come si dice, pur di mantenere in piedi questo sogno, che ormai è un sogno un po' condiviso. Quest'anno, ripeto, le caratteristiche a livello proprio invece organizzativo è dissiamo l'edizione dello scorso anno, che era un'edizione dedicata alla resilienza, perché non si doveva fare, alla fine siamo riusciti a farlo grazie a tutti gli artisti che ci hanno riempito di proposte e quest'anno no, continueremo secondo la logica organizzativa dello scorso anno a fare una edizione che esclude purtroppo, e ahimè, la location del sito del teatro alla Greca, che comunque è stato un nostro vanto perché venne inaugurato nel 2014 con la nostra manifestazione, un teatro alla Greca da 500 posti, che se non sbaglio tu Federico hai anche visto, non ricordo se sei mai stato. Quest'anno invece faremo tutto quanto di nuovo nel centro storico di Ok. Calcata per vicoli e piazze. E la caratteristica, Federico, ci tengo a dirla, è questa stretta vicinanza tra spettatore e artista che viene ad esibirsi. Sarà una cittadella dell'arte dove ci si incontra, si beve, si parla, si mangia. Famose sono ormai le cene che si fanno con tavolate che non finiscono più, lunghe chilometri e tante altre cose che ti potrei raccontare, ma insomma la brevità della situazione ovviamente non mi consente, ma venite appunto a vedere che cosa stiamo combinando, perché vale la pena. Senti Accetto, Igor, da Roma. il tema va pronunciato all'inglese, il tema di quest'anno? Sì, l'abbiamo pronunciato all'inglese, se Utopia è l'inglese, come presumo, io pensavo che fosse questo e tu me lo confermi nuovo Utopia, contemporaneamente. Utopia, sì. Utopia. Io guarda, mi sono avvicinato a questo tema come faccio sempre per libera associazione e per ispirazione, nel senso che oltre che traspirazione, vista la fatica che stiamo facendo, perché è un tema insomma, che mi ronzava tanto, da molto tempo nella testa e quindi quest'anno mi è sembrato il caso di approdare a questo tema, in quanto ci rifacciamo chiaramente a Utopia di Tommaso Moro, Thomas More, come che dir si voglia, chiaramente rifacendoci a questa, a quest'opera del 1400, non so, 80, 85, non ricordo bene, inglese ovviamente, che parla appunto di questa isola di Utopia, voluta dal suo primo re che, tagliando l'istmo che la collegava alla terraferma, cercò di ricreare un mondo ideale, ma è un'isola ideale governata, pare, dagli artisti. E qui, insomma, mi pare evidente Certo. il legame che ho voluto stabilire con il paese di Calcata, Sì. noto tra le altre cose anche in quanto e soprattutto paese degli artisti. E, insomma, Igor, anche quindi quest'anno cinema e teatro? assolutamente sì, come dalla prima edizione, chiaramente con la prima edizione abbiamo iniziato insomma un po' più in affanno perché era normale, oggi lo siamo ancora 100 volte di più in affanno, ma insomma ormai abbiamo il polso della situazione e siamo sicuri con grande tranquillità andiamo verso l'incertezza. Utopia tra l'altro è proprio un'isola che appare, che potrebbe esserci e potrebbe non esserci, l'Atlantidea isola che esiste o non esiste, quindi insomma anche in questo senso in qualche modo ce la chiamiamo. Comunque sì, cinema e teatro, quest'anno apriamo subito con, per quanto riguarda la sezione cinema, ci tengo a dirlo, con il bellissimo Brutti e Cattivi per la regia di Cosimo Gomez, che verrà amico ormai e verrà a presentare insieme allo sceneggiatore, co-sceneggiatore del film, Luca Infascelli e l'attrice Rosa Canova. Seguirà sempre per il cinema un'altra opera prima, perché parliamo di opere prime comunque. E il caso ha voluto insomma che ci imbattessimo quest'anno senza volerlo in Utopia appunto di Bernardo Carboni. Anche questa opera prima verrà presentata dallo stesso regista e proseguiremo con una ricchissima e bellissima, veramente c'è tantissimo, veramente tanto, tanto, tanto. Abbiamo mediamente dai 10 ai 12, 13 spettacoli sabato e la domenica, un po' di meno il venerdì perché chiaramente iniziamo il pomeriggio, mentre sabato e domenica sarà aperta tutto il giorno. Sarà veramente una lunga maratona fatta di artisti di teatro, di cinema, di musica, perché si amplifica sempre di più, amplia sempre di più la sezione legata alla musica, e ogni giorno ci saranno almeno uno o due performance musicali, tre addirittura per l'ultima giornata. E per quanto riguarda il teatro, Federico, che cosa posso dire? Abbiamo veramente di tutto e di più, da Alberto Savinio come autore, interpretato dall'attrice insomma importante Elena Croce con la regia di Alessio Pizzek in apertura alle 19:30. Abbiamo Laura Lattuada, altra nota e bravissima attrice che verrà a portare anche lei un suo testo qui. Per non omettere nessuno, Igor, a questo punto diamo i riferimenti web per il programma. Assolutamente, non vorrei confondere ulteriormente le tue idee, ma insomma, vista la complicanza del nostro indirizzo mail, che è il nostro indirizzo del sito, che io adesso cercherò facendo spelling di farvi arrivare, www.dillingerascult.it. Perfetto. Ad arte, questo è. E abbiamo anche la fanpage Ad Arte Calcata, che è tutto molto più semplice, si può vedere perché stiamo ovviamente pubblicando ormai in maniera ininterrotta tutto quello che verrà fuori. Ci tengo a dire degli appuntamenti importanti anche del sabato, verrà qui l'amico scrittore noto ormai famoso Antonio Manzini, che verrà a presentare un romanzo ancora inedito, lo presenterà qui da noi, verrà l'altra nostra grande amica Mita Medici, sempre di sabato, che verrà a presentare una sua performance happening dove si narrerà, parlerà di sé, degli anni ruggenti del 68. Verrà Gianrusso, nota faccia delle Iene, a presentare un bellissimo monologo sul calcio, vissuto vissuto da lui in maniera assolutamente totalizzante quando era ragazzo, e come tutti coloro che amano il calcio continua a vivere in maniera totalizzante anche oggi, con un po' più di maturità e di esperienza. Graziano Piazza e Viola Graziosi anche per il teatro, la domenica, Astralanza, ma insomma siamo veramente carichi, ricchi, c'è veramente di tutto, dalla commedia al dramma, c'è tutto, al cinema. È meraviglioso e di tutti i tipi. E allora ricordiamo questa quinta edizione di Ad Arte a Calcata, provincia di Viterbo, dal 31 agosto al 2 settembre. Un ringraziamento e un saluto al direttore, co-direttore Igor Mattei. Igor, un abbraccio, un in bocca al lupo e a prestissimo. Viva il lupo Federico, e ti aspettiamo tutti i tuoi radioascoltatori. Ciao. Un abbraccio. Ciao.